giusto. C'è qualcuno su 10? Ora, ora, attenzione, binario 10, cambio. C'è qualche sopravvissuto? Sopravvissuto a che cosa? A scaldo, Gianfra. Ah, beh sì, che in città sì, sta soffrendo. Qua è alta la temperatura, però almeno ogni tanto arriva una flotta di vento. Stavo notando un effetto vibrato sulla voce, è possibile? Sulla tua? Sì, perché prima ero in macchina, ho preso un po' l'aria condizionata e a me mi fa questo effetto che mi fa rauco subito. Forse era un segnale in corso. Sì, domani farà anche più caldo, siccome tra oggi e ieri è la giornata di commissioni, per carità, non te ne dico. Giornata infelice, perché meglio uscire all'alba a far spesa. Prima ci lamentavamo del freddo, adesso arriva il caldo. Bene, va bene. C'era un altro segnale, o sbaglio, avanti. Niente da fare, vabbè, in casa ancora, non mi posso lamentare, ma fuori, caspita, stamattina, domani anche peggio, anche proibitivo andare al mare con questo caldo, perché gli può venire un accidente a uno. Ma perché al mare si può ancora andare? Non è tutto chiuso, tutto vietato, tutto a pagamento. No, Platamona no ancora, ma ci arriveranno. No, a Pelosa è tutta una specie di... ti controllano quanti granelli hai di sabbia sui piedi attaccati, vabbè, fumare in spiaggia va bene perché tanto le cicche poi le mettono nella sabbia, ma al limite portati un posacenere. Ehi, un po' lì è tutto fiaghini, Gianfra, non tollerano che un bambino giochi con i tamburelli, non tollerano transito di venditori ambulanti, un po' sta diventando un po' a regime quella spiaggia. Così, da quando è diventato comune il Tintino, è quello che è. Vabbè, però Platamona, insomma... Io intanto giocano a pallone, ragazzi, ma io non sono di quelli così rompi scatole, capito? Va bene. Non so che dire, sono senza parole e senza acqua, devo andare al market a comprare l'indispensabile. Ne farei a meno volentieri, ma come ho detto è indispensabile. Io sto aspettando che cali, o meglio che cali, che si deve un pochino di venticello per buttarmi giù questa antenna, la che mazza, e cambiarle il tubo e sono un po' più alta, non sarebbe necessario, però, siccome mi sono avanzati tubi, allora... Eia, tu quale hai, la Game Master lunga o la mezz'onda? Così mi metti in difficoltà, qual è la Game Master lunga? Quella alluminio, cioè per esempio è trosesina, c'è la bobina rossa sotto, è lunga, quanto sarà? 6 metri, 5 metri. Buonasera. Milo Profetta, mi chiedevo se fosse ancora vivo. Sì. Toccandoci gli attributi, siamo qua. Non so che ci sia dall'altra parte, comunque buonasera. Ehi, c'è Gianfranco anche. Vabbè, presto per il market, poco prima delle 8 vado, in modo da avere un po' più di fresco. No, Gianfranco, siccome la Game Master a qualcuno c'era anche rotta, e si diceva che strutturalmente fosse un po' delicata, non so se alla base, poi dipenderà dal vento, volevano fare o hanno fatto anche la Game Master mezz'onda, cioè un po' più corta della normale Game Master standard, però qui non ho avuto conferma se l'hanno fatta oppure no. entrato. No, questa è lunga, ha subito venti da piegarla di brutto, quei famosi venti che abbiamo conosciuto tutti. È ancora lì tranquilla, non è successo niente, è larghezza di pa originale, stiamo parlando questa roba originale, perché magari quella che si è aspettata era di quelle un po' mascherate, come stanno facendo anche molte via, contraffatte che non guardano un accidente. Comunque questa sembra che vada tranquilla, non è successo niente, venti fortissimi, ha detto tranquillamente. Tutto lì. Riprendi Marco, fa entrare, mi è sembrato un break. Mi è sembrato doppio rum. Gianni, sei tu. Buonasera a tutti, dai. Meno male qualcuno è entrato. Sono entrato poco fa, deserto assoluto, ho fatto chiamata, nulla di fatto, ti drumiti. Ammazza. Cosa? Mia Giulio, mi di abbassare un po', già, non per me, dico. E quindi lo professi andando al mare tu, oppure... Guardo troppo, dai. Niente, ciao Giulio, ciao a tutti gli altri amici, dai. Ciao a tutti, ma la basta ancora. Cosa? Non ti ho capito. Io ho salutato, ciao a tutti, ho detto. Ciao, basta ancora, perché la tua radio è troppo penetrante, è da fastidio. Guarda così a vedere. Adesso comincia a essere migliore. Così va bene, dai. Comunque mi sto ascoltando, dai, adesso andate voi che io sto facendo qualcosina qua, che sono impegnato. Ok, adesso ho capito chi c'è. Ciao Giulio, ciao Doppio Rum, ciao Gianfranco dall'altra parte. Rinnovo il saluto anche a Marco. Non so, poco fa stavi parlando Marco, ma ti ha sovramodulato Doppio Rum. Ehi, abbiamo parlato in due. Ehi, ciao anche a Giulio. Caspita, già Gianni il caldo, poi radio penetrante, è che non ci siano Greco L in radio, eh? Già. No, che non è così penetrante, Giulio, esagerato, dai. Non è così forte. Ma tu come la senti? Pimpante, il termine mio è pimpante. Ma non così forte, dopo tutto. Io tengo sempre un volume moderato, perché qua non vorrei disturbare mamma che segue la TV. Gappa, gappa, dai. Beh, profe, che fine hai fatto? Al mare, no? Come stavi andando? No, niente male, niente male. No, diciamo che... Come si dice? Stavo sbrigando altre cose, dai. Ah, ecco, dai, va bene, dai. Allora, se non ho te la mettiamo a muta. Sì, ma deve essere propagazione già. Ecco qua, Gianfranco, sei all'ascolto? Sì, ma saluto tutti e faccio un tentativo di buttarla giù, vediamo un po' se mi spezza oppure se rimane intatta. Eia, allora 5 metri e mezzo per la mezz'onda. Poi quella normale 7 metri e 36, 7 metri dai, e siamo sempre lì. Qualcuno, ma venti forti noi non abbiamo, ma anche Stati Uniti, sai, zona di tornado, lì ti spezza qualsiasi cosa, d'alluminio, di qualsiasi materiale, oppure la bora forte, ma venti ben più forti dei nostri, Gianfranco, a parte il 2008 famoso, quello era un vento forte, forse più forte di tutti gli altri arrivati dopo. Vabbè Gianfranco, se devi operare sull'antenna fai pure. Ciao Gianfranco, Marco salutati, ci siamo. Marco, non c'è bisogno di bora di questo e l'altro, la Tigre di Porto Torre si riesce spezzata in due con l'antenna lì, ed era l'originale, l'ha comprata originale e vi si è rotto. Sì, saluto tutti. Guarda, qua ha raggiunto il 100 con il misuratore di 20 e non ha fatto un tubo, perché il tubo è accessibile, non si piega, ma l'antenna è intatta. Ho sperato già parecchie bufere, come anche le altre, però è tutto intatto, no? E qua batte forte, quando si incacchia batte forte. Ok, ciao Gianni, buona serata, ciao Giulio e ciao a tutti gli altri, vado un po' a vedere se riesco a sciogliermi. Ciao Giulio, ci sentiamo, ma Tigre di fronte al mare, capisco, rimane a parlare di fronte al mare e probabilmente il vento comunque. Ok, dai, vi saluto anch'io a Gianfranco. Ciao Gianfranco, ci sentiamo alle prossime, ciao. Cappa. Ah, quindi ho capito bene, a Tigre, a Sandro Tigre si era rotta. Ehi, allora io abito proprio di fronte al mare, capito? Magari il maestrale abita proprio di fronte lì, vabbè, c'è bisogno di dirlo, dai, proprio di fronte al mare. Lì non ha protezione alcuna, né palazzi, né colline, né montagne, lì arriva di brutto. E comunque anche Solar con IMAX 2000, ti ricordi quella vetroresina americana indistruttibile a detta loro? Più di una se n'è rotta a leggere il forum. Però sempre in casi estremi, Bora, che ne so, adesso io non so in Italia quale sia il vento peggiore, più forte, più distruttivo, ma se ne sono state antenne rotte. Gira, gira, gira, beh sì, gira, gira, gira, che ti gira, i numeri sto dando, la manda, ma Mantova 1, francamente, se ne sono mai spezzate, proprio di stilo verticale. No, ma non penso, dopo tanti anni magari, le Mantova solitamente spezzate in due, le puoi vedere dopo che ci sono 40 anni, 50 anni, roba così, ma no. Ce n'era una per dire via di Umberto prima di fronte al mercato, però lì c'era spezzata, ma dopo tantissimi anni che la usava. Eia, al limite si potrebbe piegare. La Mantova aveva un bel, c'è tutta la barge, era bello grosso il tubo dello stilo. Eia. E vabbè, comunque io, a me piace più l'alluminio, francamente. Questi cavi messi dentro tubi di plastica o vetroresina che sia, non mi piace tanto, vabbè. Considerazione puramente personale, non. Vai il profeta. Eia. Per doppio room, ti conviene già abbassare leggermente il mic gain, perché praticamente con questa radio così squillante e il reverbero che ti porti appresso, praticamente a volte risulta incomprensibile quello che dici, cioè perlomeno da questa parte. Guarda, adesso se va bene, cazzo, c'è una bascetta di gioco, prima l'ho passato per giù, adesso per te, vediamo se così va bene. Di abbassare questi cursori si dovevano parlare in quel paese. Ancora me se va bene adesso. Ok, adesso sì, adesso riesco a capire quello che dici. No, sai cos'è? Che siccome è molto squillante come tonalità, poi c'è il reverbero anche appresso, e quindi praticamente si impasta tutto e si confonde, capito? Sì, perché siamo avvicinati, se no lontano non lo fa. Cosa stavo dicendo, Marco? Mi hai tolto le parole dalla bocca, perché quelle in vetroresina si vetrificano e si rovinano subito, come i radiali della Mantova, si sono tutti vetrificati dopo pochi anni, e li ho dovuti cambiare, li ho tolti io i radiali, perché erano tutti quanti, non è che si sono spezzati togliendoli, perché erano marci, proprio vetrificati, e ti pungeva le mani se lo stavi a te. Sì. Allora, nell'84, nell'anno di grazia 84, noi avevamo messo nell'altra casa, molto bassa peraltro, una Sigma GPVR, Grand Plain 3 radiali, stilo alluminio, radiali vetroresina. Poi noi siamo venuti qua nel 92, quando abbiamo tolto quella per non lasciarla lì comunque, a parte che lo stilo era in condizioni pietose dopo soli 8 anni, cioè dopo soli 8 anni faceva schifo lo stilo, tutto inchiodato, anche non potevi separare le due sezioni, i radiali erano già tutti rovinati, e come detto tutti pungeva le mani, poi non li potevi svitare perché l'ottone, la filettatura è diventata tutt'una, l'abbiamo fatta a pezzi per buttarla giù, capito? Sigma GPVR, 3 radiali, presa da Adriano in via Lomberto, nell'anno di grazia 1984, e poco è durata, come, cioè funzionava, non è che non funzionasse, però già dopo pochi anni c'è stato anche un calo delle prestazioni, che avevo notato soprattutto in trasmissione, lo sai, me lo dicevano anche gli altri, dice ma sei un po' più basso, stazionario non ne avevo, il cavo era nuovo, era stato comprato nuovo, sempre un'antennucola, dai. Oh, c'era la sigma di X, quella che io usavo per la macchina, quella bianca, non so se te la ricordi, io ce l'avevo nell'8.50, quella ricatta poco in batteva, era buonissima, la sigma di X era una bellissima antenna, era tipo la Turbo 2001 di adesso, dai. Ma sempre fibra di vetro, vetro resina. Io a quei tempi mi ricordo che le antenne in acciaio, con silo in acciaio, si usavano ancora poco, benché la CTL le producesse già, no? Con le relative basi magnetiche, no? Tutta roba importata dagli americani e qua eravamo ancora, vabbè. Mi ricordo la PLC-1000, PLC-800 in fibra nera, è corretto? E poi c'era la Colibri, c'era quell'antennone 75, quella era in alluminio che ci aveva un mollone grosso, non so se te la ricordi. No, negativo, Colibri. Se mi dici la marca la cerco su internet, vediamo se ce n'è traccia. Gianni, dimmi. Mi senti? Dimmi. Come mi senti? Con l'orecchia. Già ti sento bene. Sono qua là, casa della 25, ma c'ho un fondoscala stazionale. La radio è perfetta, Luca, come mai? Sono con il mio. Sì, la radio è di lusso, scusa. Primo stazione a fondoscala. Il cavolo. È già troppo che esca. Occhio che può bruciare, vabbè, già lo sai. Ci vorrebbero ancora a Torino lì. Giulio, dolla, vabbè. Non è poco. Vabbè, comunque c'era un 127 allora. C'era di Agostino Ago, la buona. E praticamente facevano la cavalcata ai cibi allora. Facevano servizio alla cavalcata e c'era quella di Agostino che era un 127 blu con l'antenna di lato e risultava dietro come la civetta della polizia, uguali lì che c'era il 127 blu, la civetta della polizia con l'antennone così e tutti lo scambiavano per polizia e facevano tutti il saluto ai carabinieri, tutti i gatti. Allora, ho trovato delle antenne Colibri, però non sono quelle che dell'epoca. Aspetta, immagini, della Sigma hai detto? Mi sa che era della Sigma, ci aveva lo stilo arancione, un giallo ocra. Ehi, Gianni, tu quando, il profeta, quando modulavi, tu che antenne avevi all'epoca? Mi ricordo una Grand Plane, quelle piccole. Mini Grand Plane, caricata, può essere. No, già, questa è 88 centimetri. Ma tu mai parlato di un'antenna di 2,70 m? Come può essere un'antenna veicolare 2,70 m? 1,70 m, sbagliati io forse. No, ma la Colibri non è quella, io ti ho fatto di due antenne. Una era la Colibri e l'altra era quella col mollone grosso che era in acciaio. La Colibri invece era vetrurisina color ocra. E rimaneva piccola la Colibri. Invece questa col mollone in acciaio che era... spesso la carica era e poi c'era questa antenna che era lunga e 1,75 m, metro sì, penso che fosse 1,75 m, 2 metri forse anche. Eia. Allora sì, questa Colibri è la tipica antenna da macchina della polizia, no? Il galletto, la mollettina, la base, quelle antenne sui 70 MHz che avevano, adesso non so se abbiano cambiato, sti fibra bianca, capito? Sì, ora capisco perché con la macchina giusta potevi passare per... sono allucinanti, cioè, basta che vedi Marmaglietta come vedono un'antenna con una macchina qualsiasi, con un'antenna sopra che non sia autoradio, mimi gli spirri, occhio chi fisso gli spirri. È successo anche a San Francesco, non mi ricordo se c'eri tu o chi c'era, cioè, mimi chi fisso gli spirri, capito? Ed era un'antenna CB, cioè. No, io non penso, io non ho una temere figlio, no, non penso che lui. Non penso che lui. E la 9 comunque, questa faceva una piccola confusione. Allora, quella grande era quella che era simile a quella della polizia della civetta, era uguale, cioè aveva la stessa macchina, stesso colore, stessa antenna, AVO, si chiamava AVO al baracchino, era Agostino De Fino. Poi vabbè, adesso non c'è più, povera, se c'era andata in pensione, pochi mesi e se n'è andata. Poi, vabbè, comunque, Agostino ci aveva quella lite e ci aveva una faietta a casa sua, quello bianco, stazione base, un bel bello. Allora mi aveva venuto l'antenna che era ancora scattolata dopo tanti anni, lui l'aveva comprata e mai messa. E io l'ho rivenduta, l'ho pagata, mi pare, sulle 30 euro. Era una gran play, poi mi aveva chiesto uno dei paesi che l'ho venduta. Non l'ho fatto toccata dalla scatola, l'ho venduta così com'era. Eia. Però mi chiedevo, quelle antenne così, no, resina, fibra di vetro, quello che è, no? Che poi erano rivestite giustamente da quella guainetta nera, no? Ma quando beccavi un ramo, non avevano la capacità di flettere come quelle in acciaio? Cosa succedeva? Si troncavano o avevano una certa... cioè, se era fatta bene, fletteva e come? E secondo la passata credibile già si aspettava, dentro c'era la carica. No, non c'era, non era ricoperta di niente, praticamente era la resina, dentro c'era la carica, dentro su tutta l'antenna c'era la carica. E in più c'era la molla grossa, c'era la sigla di X, c'erano diverse belle, che andavano bene come anche. Dicevo la sigla, era bianca, me lo ricordo ancora, vetro resina bianca. E poi c'era la Colibri che era un'antenna piccola ma sincera, andava bene. E c'aveva la molla particolare, non era dritta, era rimaneva tipo piramide così. Io avevo comprato una volta da Fara, da Costantino Fara, un kit di antenna per macchina e c'era una frusta nera, c'era quella di altezza normalissima e più c'era anche un'antenna tutta in resina, sottilissima, tutta in resina. Ed era montata a metà, c'era una specie di ghiera e si avvitavano l'uno con l'altro e diventava lunga 2,75 m. Ed era un'antenna che si poteva installare anche nella stazione fissa e andava molto ma molto bene. È vero, oscillavo perché era tutta in resina, poi tra l'altro anche sottile, però anche sotto gli alberi non succedeva niente, anche in garage, tu entravi in garage con quell'antenna e non ti succedeva niente, perché si piegava che era una meraviglia. Vai Gianni. Ma tu te la ricordi Giulio, quella che sto dicendo io, quella in acciaio, era 2,75, ce l'ho aggiunto io, dai. Era asta, me lo ricordo bene, diceva quel molone grosso grosso in acciaio e l'antenna era lunga lunga, non so se te la ricordi. Certo che me la ricordo, sì che me la ricordo, ce l'ha avuta anche il Walter, ce l'ha avuta nella macchina del fuoristrada, ce l'aveva attaccata, mi sembra, se ricordo bene, nel paraurti dietro, perché era troppo lunga. Sì, quel molone grossissimo, sì. No, ma io sto parlando questo di antenna tutta in vetro resina, solo che al centro c'era, perché era in due pezzi questa antenna, no? C'era una ghiera in ottone filettata e una sempre in ottone che era maschio, cioè una femmina e si avvitavano insieme e diventava lunga 2,75 m, praticamente un quarto d'onda, non c'era carica, non c'era niente e si piazzava sul blocco della frusta nera, si piazzava uguale, identica. Sì, vabbè, c'era un raccordo dove abitavi l'altro pezzo, capito? Beh, ce n'erano diverse di antenne allora che andavano bene, le facevano buone, sembrava un'antenna di cavolo, invece quando le provavi, tipo quella della sigma di X, non so se tu l'hai mai avuta, però la sigma di X che ci avevo io andava benissimo. Riprendi Marco che sono al telefono. Ehi. Allora, non so se Gianni si ricorda, doppio room, sto parlando sempre degli anni caldi, no? 85, insomma metà anni 80, no? Se andavi alla, alla CTE, alla GBC, c'era anche sul catalogo, vendevano queste antenne che avevano quindi bobina alla base, la base era colorata, guarda, era simile all'antenna che ho io, della Midland, però la base era colorata, no? E poi avevano lo stilo, altezza media 1,50, poi c'erano varie misure. E le basi magnetiche che ti davano in dotazione avevano lo stesso colore del copribobina alla base. Non so se te lo ricordi. Comunque già comparivano ed erano forse di influenza americana, perché io vedendo il film vedevo che... già capito, dai, vedevo, sai, quelle cose azzardo, vedevo anche antenne sottili ed era stile da, d'acciaio quando noi ancora avevamo roba in vetroresina. Sì, io ancora me ne ricordo della Midland, che erano sull'azzurrino, avevano la scritta Midland della base che era colorata, sull'azzurrino, quello me lo ricordo, non so se stai dicendo questo. Sì, vari colori, rossa, azzurra, verde, gialla, forse anche nera all'epoca, non mi ricordo, in base al colore della macchina te la poteva abbinare, per dire, no? In grosso modo. E... qualcuno ha parlato sotto, chi era avanti? Ci avete parlato in due sotto, non so chi c'era. Chi c'era sotto di me? Stavo schiacciato, ma... A proposito, l'altro giorno, aia, mi sto tirando i peli, il cordone spiralato, mi sto tirando i peli del braccio. L'altro giorno mi sono guardato quel film Radio Killer, te lo ricordi, con la buona anima di quel ragazzo, aspetta come si chiama, quello che ha fatto Fast and Furious, che prendono in giro un camionista ed era uno psicopatico, giù me li ammazzo tutti e due, anzi tutte e tre, compresa la ragazza. Sì, mi ricordo che un film del genere l'avevo visto, ma ti parlo di un bel anni fa. Stanno riuscendo tutti i film di vecchia era adesso, anche c'è anche il Vis fra poco. Anzi ti dirò, Radio Killer è del 2000, del 2000, già i baracchini, vabbè in America magari vanno ancora, però non era l'età dell'oro, capito? E praticamente il baracchino che avevano loro, i ragazzi in macchina, era un Cobra, roba che da noi non c'è, Cobra, Knight Rider e non so che cosa, no? Sembra un 3009, sembra, mi capito, tipo quelli là, monopole cromate. Però per fare più figo, al posto dello Smith e la lancetta gli hanno messo le barre a LED che si illuminavano in base al segnale. Bello, carino quel film. Ma tu non lo sai, vecchia era che parlo, quando avevo 127, c'erano i baracchini 127, quando io parlavo c'era quel distorsore, praticamente si accendeva luci verdi, gialle, rosse, quando era solo rosso vuol dire che stava distorcendo la radio, allora la passava appena appena, ti segnalava come stavi facendo di radio. Ma potevi cambiare la voce anche per caso, perché vari microfoni lo fanno, anche la ZG da Palmo, per fare la voce da Paperino, da Orco, capito? Queste vie. No, non era di quelli lì, era a parte, era un apparecchio a parte come può essere una camera eco, era installato in modo che avevo fatto il mobiletto, nel 127 lo sai, che non c'era il mobiletto per mettere lo stereo, ne avevo comprato quel mobiletto e lo vendevano al corso dove vengono più presi il ricambio per macchine e cose. L'avevo comprato lì, e adesso non so se esiste più quel negozio, con la donna che aveva gli occhiali grossi grossi. Poi fatto sta che abbiamo comprato il mobiletto che era tutto rivestito in pelle e cose, no? Abbiamo piazzato il mobiletto e ci eravamo messo lo stereo, c'era lo spazio tra lo stereo per il baracchino e per metterci questo, c'era un cassettino e ci ho messo questo distorsore. Quando tu parlavi, come può essere, guardate, posso dire, i vecchi amplificatori, equalizzatori, te li ricordi? Mi, aspetta. C'è nessuno che conosce Caramellina? O Cocco di Mamma? O Pecora Nera? La voce del killer. Sei a destra? YouTube. Ha una voce, insomma, così ambigua. poco fa Marco sono andata su Civitavecchia perché non sapevo cosa fare, non c'era nessuno là. E c'erano questi qui che stavano dicendo cosa ho negro. Gli ho detto, ma tu allora se io non ho fatto niente perché non mi fai entrare? Perché tu sei nero. E ho detto, non sono io che sono nero, sei tu che sei crudo. Ah, Ormedo c'è Rita, una che si chiama Rita, mi pare l'unica che mi utilizza. Copiare le antenne Game Master, quelle da Sirio, l'aveva copiata lui che poi ne ha venduto parecchi, ne ha venduto in tutta Italia. Poi a sua volta c'è qualcun altro che l'ha copiata anche qua. Vabbè, comunque quello, io sto parlando con quello, ma non è solamente uno, ma quello contanto penso che sia anche l'animatore, penso, non sono sicuro. Però è anche molto bravo perché fa molti esperimenti, fa, non solamente sul fatto delle antenne, ma anche sul radio, sui baracchini, eccetera. Per cui deve essere uno capace. Radio Killer si chiama Francesco Luna Rossa. Sì, scusa. Sì, Francesco Luna Rossa lo conoscevo solo per forum. Sì, praticamente l'ha copiata, è venuta, poi qualcuno ha copiato, da chi ha copiato? Adesso le copiano tutti. Adesso lo copiano tutti, certo. Il primo sono voi, cioè il primo, io sono l'ultimo. Qualcuno che è stato il primo qua vorrebbe far diventare imprenditore di antenne, ma non può riuscire però. Oia, oia. Ecco qua, allora sì, Radio Killer sicuramente ha preso il nome da quel film, tu lo conoscevi Giulio quel film, poi rilanciamo al profeta. L'ha visto quel film, o Giulio? No, non l'ho visto io. Vai Gianni, il profeta. Eia. No, io quel film personalmente non l'ho visto. Non so di cosa si tratta. È un thriller, vabbè, un film commerciale, mi già, un thriller, praticamente questo ragazzo va a prendere il fratello che c'è di galera, Paul Walker, quello che ha fatto Fast and Furious, quel ragazzo che è azzurro e biondo, poveretto, morto in incidente stradale prematuramente. E poi vanno a prendere questa ragazza, no? La loro amica, nel frattempo prendono in giro un CB, un camionista, facendo la voce da donna e dandogli un appuntamento in un motel, no? Cosa succede? Che loro gli danno appuntamento in un motel in una stanza di uno, praticamente di un attaccabrighe rissoso, no? E loro nella stanza a fianco ascoltano cosa succede, no? Poi da lì scoppia il casino perché ci scappa il morto, non so, vabbè, non ti rovino la. Ho capito, sì, conosco l'attore Paul Walker, tra l'altro era impegnato anche, insomma, gli stavano a cuore determinate tematiche, infatti finanziava alcune organizzazioni no profit, insomma, si dava un po' da fare, e forse per quello che gli hanno sabotato la macchina, si dice. Nega, poveretto, vabbè. Pensa, ha fatto tutta quella serie Fast and Furious, almeno una parte, poi doveva morire in un incidente stradale. Poi non so se guidasse lui o l'amico, poi non. Vabbè. Così è, purtroppo. Mi sa dire che sulla Mugliuni c'è scappato un morto. Uno con lo scooterone. Mamma mia, infatti c'era di mezzo un sorpasso, ho capito. Ah, quanto qua dice che lui sorpassato ha urtato dietro una macchina e ha preso il controllo della moto. E a quanto dice la nuova sarebbe andato a sbattere frontalmente con un'ennesima macchina che era in senso contrario. Vabbè che la nuova, vabbè, prendiamola per buona, poveraccio. E poi, notizia fresca, hanno trovato morto dietro il bancone un gestore di una stazione di servizio, di un distributore, sulla camionale, aspetta che guardo. Quella di della Budebudi, non capisco come abbia voluto sorpassare questo tipo qua, e poi si è sbattuto a una palla, si è battuto dietro e da lì ha catapultato ed è finito sull'altra macchina che veniva in senso contrario. Non capisco come faccia un uomo di 64 anni a voler sorpassare così in mezzo al traffico, eccetera, eccetera, veramente non lo capisco. E poi stava camminando come un pazzo, perché nella fotografia che c'è sul giornale la ruota di dietro, di sinistra, premesso che lui si è battuto al fanalino praticamente, si è battuto dietro, e ha fatto la ruota storta dell'avantreno della 126 o cosa è, insomma, della panda, cosa è. Come, si vede che stava correndo come un pazzo e voleva sorpassare. Evidentemente è stato anche il destino, questo io non lo so. A meno che non voglio essere cattivo, non era brutto, perché oggi guarda non c'è da meravigliarsi di trovare queste persone che vanno con un tasso di alcolico o alcolerico molto ma molto alto, guarda. Non c'è da meravigliarsi oggi, già lo sai, già le trovo tutti i giorni. A 64 anni mi sembra strano che abbia fatto un salto in testa così, se non c'è qualche cosa che gli fulla nella mente. Sì, ma non è niente di strano, perché su quella strada lì si possono passare tranquillamente, che ci sono quattro corsie, quindi non è che c'è nulla di strano a sorpasso. Il fatto è che lui magari ha sorpassato all'ultimo momento, non si è reso conto che la macchina magari stava andando troppo piano e lui è andato a sorpassare all'ultimo momento e non ce l'ha fatta scansare. Non lo so. Gianni, 64 anni, ma via lì su, hai capito? 64 anni, io posso capire un ragazzo, già lo sappiamo come fa, perché non ci pensano a questo, ma questo aveva 64 anni, non capisco quanta fretta potesse avere questo qui, se non aveva un pochino di qualcosa di anticcio nella testa, guarda, non riesco a capirlo. Che possa essere anche un destino, questo non lo escludo, per carità, non lo escludo, però mi sembra che a 64 anni tu non ti puoi mettere a sorpassare in una serata dove c'è tanto di quel traffico con uno scooterone così, non è possibile, guarda, non riesco a concepirlo. Boh, vabbè, comunque è andata così, pazienza, faccia l'anima sua. Solo che adesso ne faccio tre macchine, tre automobilisti, perché a quello là gli hanno sequestrato la macchina, perché ha coinvolto tre macchine in tutto. Ecco qual è il discorso. Avanti un profeta. Già. Fatalità, come si dice. Poi, le vere cause non le scopriremo mai, comunque. Oh, yeah. Sta facendo parecchio caldo, devo dire che insomma la calura si fa sentire parecchio. No, adesso già comincia il freschetto fra poco, io penso che non si possa dire nulla, non si sa come sia successo, quindi non si può parlare, non si può dire nulla. Io una volta mi è successo quel curvo lì che c'è, che divide le due carreggiate, prima si camminava tutto dalla parte di Via Bellini. E cosa è successo? Per questa macchina mi ha frenato di colpo, io c'avevo la moto nuova, non c'avevo manco una settimana, e mi ha frenato di colpo, io ho frenato, la moto mi ha tintato e da ferma mi si è girata, io sono caduto sul cordolo e la moto sopra. E immaginati, questo credo si è fatto male, cazzo, mi frena così di colpo, stavo provando i freni perché l'ho ritirato al meccanico, stavo provando i freni, però lei deve guardare dietro, detto, quando provo il freno non può frenare così, una femmina. Sono andato alla moneta, tutto quanto dolorato, tutto messo male, stavo andando a lavoro, quando mi ha visto il mio collega, no, tu così non ci rischi, quasi tutto viola, ma se tanto si è visto come si. Cazzo, se avevo le macco, ma guarda, mai visto una cosa del genere, i dottori mi hanno detto, le ho viste macchine così grandi, ma mi prendeva tutta la pancia, dietro nella schiena, davanti, non ti dico, sembrava un negro. Purtroppo le cause della moto sono micidiali, non è quello, io lo so, ma per dire, può darsi anche che lui ha voluto sorpassare e magari con la panna a tua volta anche la panda potesse sorpassare, chi lo sa. C'è da considerare che questo, io so solo comunque che lui ha tamponato la panna, ecco qual è il problema, perlomeno vedendo la dinamica dell'incidente e della fotografia che c'è sul giornale, non lo so Gianni cosa vuoi che dica. Adesso, o che lui era in sorpasso e improvvisamente ha voluto anche sorpassare la panna e allora si è trovato lo sacco avanti, può darsi che sia successo così, però io cosa vuoi che dica. Ma comunque, il destino è molto, è proprio crudele, questo, dopo tutto quest'uomo, 64 anni, appena finito da questa festa di sorpassare in un momento di traffico così intenso come c'era in quel momento. E vabbè, pazienza, è andata così, quello che vogliamo dirne, non vogliamo dire niente. Faccia l'anima sua, può darsi che la destina da quello. Vai Gianni, un profeta. Ehi, Marconi, scappato sì, o hai messo a bollire l'acqua per la pasta? No, no, anzi, oggi abbiamo mangiato un po' prima, perché è uno scandalo se no cenare tardi. Però è imperdonabile, non ho bevuto il caffè dopo pranzo. E infatti adesso me lo prendo freddo, caffè freddo, ambiente, dai. No, stavo guardando quella notizia. Sì, è morto il gestore del distributore Kuwait della camionale Sassari Pro Torres. Hanno trovato dietro il bancone con una ferita alla testa che bisogna stabilire se ce l'è fatta cadendo, magari ha avuto malore, oppure pensano, cioè qualsiasi ipotesi è valida, anche una rapina finita male. Boh. Vabbè. Domani farà ancora più caldo e sono di revisione. Domani sicuramente mi scoppia il radiatore, si brucia la pompa dell'acqua, tutto succederà domani. E non te la manda. Dove vai a farla? Non ve lo dico. Dai, dimmelo. No, non ve lo dico, voi venite a mettermi la portante al centro revisione. Vai via Cadone, due pasca a casa tua. No, no, già preso l'appuntamento, dai. Vabbè, la macchina a posto, niente di che, ma sai, le emissioni, perché la macchina vecchia, ma non credo ci siano problemi, perché tanto poi facciamo talmente pochi chilometri all'anno, faremo siano 1000 chilometri all'anno, 1000 qualcosa, capito? Quindi da una revisione all'altra non è invecchiata la macchina, a parte la carrozzeria un po'. Ma fai come me che una volta sono andato con il camion della ditta, doveva fare la revisione, la motorizzazione, sono fatto tutto luci, tutto quanto, l'ho portato all'elettrodo a farlo controllare se le luci erano regolari, arrivo lì e mi dice solo il clacson, vado solo il clacson e non funzionava. Oh cavolo, ma se funzionava sino a 5 minuti fa il clacson, ma ti dicono così, ma qua, ma là, meno male che va bene. C'avevo una conoscenza e mi ha detto, ascolta, vai, però non dire che di qua se ti fermano, perché se non prendono qua arrestano a me, se ti faccio passare. E se era cominciato un fusibile, meno male che ce l'avevo, il ricambio l'ho cambiato e ha suonato, ma c'era un cortocircuito sicuramente, perché poi dopo un po' di tempo si è di nuovo fulminato il fusibile, quindi c'era qualcosa che non andava. Però la verità, sembra che ci sia cagato sotto quando ha visto quello che revisionava. E non ha funzionato il clash, ma i freni, ma qua di lupulo andavo la faccia e l'andassa. Andava più una rotta dell'altra. Non posso? Vai. Allora, quando avevo la punto 16, no cos'era? Vabbè, una Fiat punto abbastanza spinta, un po' di motore. Il clacson suonava, però ci voleva la mano del padrone, c'era un trucchetto, no? Cioè, andava toccato in un certo punto. Avevo fatto una revisione già a Milano, il ragazzo giovanissimo è andato a premere il coso, il clacson non funzionava. Sbatte contro il clacson proprio, ta ta ta, niente, non funziona. E ha mandato un'occhiataccia, come dire, ma questo viene a revisione, non funziona il clacson. Ovviamente poi fanno passare di tutto, perché sì, ci sono telecamere e tutto, ma ho notato che i centri di revisioni fanno passare di tutto, basta che paghi, lasciamo perdere. Alla motorizzazione era una cosa più seria. Poi vabbè, revisione regolare, quindi stavo uscendo dal cancello, diciamo, del centro revisioni, no? E per salutare ha fatto papà col clacson. Questo mi guarda da lontano, sgrana gli occhi, quasi voleva chiedere, come hai fatto a farlo funzionare il clacson? Vabbè, sono i trucchetti al mestiere, ogni padrone conosce la sua di macchina. Avanti, già. Un mio amico aveva una macchina, aveva un clacson che lo stesso era molto personale, suonava solo se premevi il coso in una determinata maniera, quindi più o meno capisco la situazione. No, vabbè, stavo guardando qua una cosa qua al PC. Una commissione, una cosa che ho preso su internet, stavo guardando il tracciamento e dovrebbe partire stasera. Vabbè, bene meda, speriamo che arrivi subito, così facciamo contenta questa persona qua. Cosa volevo dire? Canale A. Ho sentito qualche spagnolo su 35 l'altra sera, mi stava dicendo che questo Raul, che bene o male loro fanno un QSO locale lì, non so se avete avuto modo di fare QSO sul 36. 35 o 36? No, no, io non l'ho mai sentito, ma su canali normali, in AM. Sì, sì, sul 36 in AM. No, ho sentito la radio di risparmiare, ma non mi ricordo che canale era. Oh, Marco, una volta mi ricordo che ho visto questa macchina sportiva decapottabile, era andata senza capota e c'erano questi due tipi dentro e hanno fatto cazzo, come la gente si è girata, ha impennato con la macchina, una cosa allucinante, l'ha fatta impennare. Già, un attimino, certe volte faccio fatica a seguirti perché magari parli in fretta, è l'eco che confonde, in poche parole. Se potessi farlo leggero, appena percettibile. Te lo dico io qual è il problema. Aspetta, già, adesso non ce l'ho con te, ci mancherebbe altro. Figurati, tu mi conosci. Te lo dico io qual è il problema di Gianni con la sua radio. Gianni parla molto, ma molto in fretta. Lui non riesce a finire lo scandire di una prima sillaba che subentra subito un'altra, ed ecco che si accavallano le voci, così. Io non ti voglio dire assolutamente che la tua radio è brutta, no, non è brutta, è alta, ed è assolutamente a volte inascoltabile, perché non si capisce niente, perché parte molto, molto in fretta, e tante volte molte parole non si capiscono. È già la stessa persona che te l'ha detto, Gianni. Io non è che ce l'ho con te con la tua radio, perché la tua radio per me è una delle più belle in assoluto della frequenza. Però la usi troppo alta, per come parli tu. Oh, Marco, ti stavo dicendo, sì Giulio, magari è così, non lo so, perché io non me ne rendo conto. Solo che questa cosa sta succedendo ultimamente, prima non mi dicevate niente, non ho capito qual è il problema. Se perché ho messo la batteria nuova, che cosa? Vabbè, comunque Marco, ti stavo dicendo che una volta in via Manno, io ero in piazza Castello, lì, questa macchina sportiva decapottabile, si è sentito come ci siamo girati, l'ha impennata, ha fatto andare su due ruote, con le ruote di dietro, con le davanti si sono andate. È una cosa allucinante, aveva una potenza e questa macchina allucinante. Caspita, vabbè, se è una decapotabile di quelle piccoline, se ha motore lo fa. Vabbè, io certe cose le ho viste in quei dragster americani, quei motori Chevrolet pompati, tipo quel programma che facevano in TV delle corse. Ah, porca miseria. sai le corse di accelerazione uno a fianco all'altro, ma è un programma che davano in quelle reti minori, già hai capito già. E certo, dalla se a trazione posteriore avevano una coppia tale che si sollevava il telaio, cioè si sollevava la macchina. Io questa qua è la prima e l'ultima macchina che ho visto fare una cosa del genere, non ne ho mai più visto e non ne ho visto prima, è l'unica volta che ho visto una macchina che è. Ma già, domanda, può essere che avesse motore posteriore o centrale, come lo vuoi chiamare, trazione, trazione posteriore per forza, però può darsi che fosse molto leggera davanti, molto, e quindi che il motore fosse dietro, non so che macchina potesse essere. Lubrofè, qualcosa ne sai che tu di motori ne tratti di più? Ah boh, non so cosa dirti, vabbè, se si pone, se chissà macchina impinnava, non era di certo né una Renault 4 né un 127, sicuramente era qualcosa di particolare, sarà qualche macchina straniera, sicuramente magari elaborata, magari era qualche tedesco in vacanza, sicuro, che loro già in Germania queste cose già girano. Ehi, vado a prendere il caffè, arrivo subito. Senza ombra di dubbio, va bene, ma ti aspettiamo. Senza ombra di dubbio, Gianni, era una macchina sportiva e di quelle anche abbastanza grosse, non era di quelle piccole, sicuramente era qualche macchina di furia. Perché questo qui ha messo le troppe, ha fatto paradà, e come ci siamo girati, ci sono girati come ha suonato il clacson così, e sono, per farsi vedere mi l'hanno fatto, erano ragazzi giovani. Ho capito, magari saranno, sicuramente magari sarà stata una di quelle macchine in kit, con la carrozzeria in vettore resina, il motore dietro tipo la di un buggy, capito? Tipo maggiolone, che c'erano molti anni fa, esistevano quelle macchine in kit con il telaio tubolare, la carrozzeria era in vettore resina con il motore tipo di un buggy, sai, quindi molto leggere, quindi erano propense a fare cose di questo genere. Comunque, sentite, avevo un controllo, già non ti arrivo. Avevo un controllo? Ehi, come mi ascolti è segnale, dai. 9.30, sì. Chi cazzo? A te Gianni, ciao. Ciao Luca, buonasera. Bene, mi ascolti? Abbastanza bene, aspetta che mi prendo gli occhiali per darti il segnale. Ciao Luca, Santiago 7, la radio è buona, non è buonissima ma è buona. Ok dai, ragazzi io vi saluto, ciao. Ciao Gianni, ciao Luca, e ciao Marco, se sei ancora d'ascolto, e ciao anche a Gianni Lubrofetta. Saluto a tutti, ascolto fino a lì e poi chiudo. Luca, vai, già sta uscendo, discreta, va bene discretamente così, rispetto a tutte le altre volte, va bene. Giulio! Ehi, Luca, ti ho risposto, no? Questo è il baracchino che uso a casa, non va bene qua, Sì che va bene, te lo sto dicendo, Santiago 7, è la radio buona, è buona, non è eccezionale perché non c'è segnale, perché è poco segnale, visto considerato da dove stai trasmettendo, dalla zona dove stai trasmettendo. No, a me non si capisce, ma le altre volte non ti sentivo proprio, difficilmente riuscivo a sentirti, alle volte è proprio nulla del tutto, anzi non arrivava nemmeno segnale. Con questo sì, Santiago 7, va discretamente, riesco a capire quello che dici. Ah ok, già, andiamo avanti. Un attimo, Luca, sei salito anche di segnale, adesso sei 9. Ok, dall'antenna comunque domani la cambio, L'antenna? Sì, l'hanno autocostruita, dai. E quale fa? Con la No. Domani la provo, dai, una autocostruita così da un radiale. Vai, Gianni Profeta, per salutare la gente. Ciao Giulio, buona serata e buon proseguo, alle prossime. Qua lo smitter, come ti può confermare Marco, dopo i 9 sembra che ti rifrena una mano, comunque qua sei oltre i 9, comunque 9.10 abbondante penso, dai, comunque sì dai, 9.10 abbondante Radio 5. Ciao Giulio, dai, salutone, buonasera e buon tutto, domani, ciao. Ciao Giulio, buona cena, ciao. Parlato in due, è passato Gianni, ciao di nuovo. Già adesso vedi, appena accennato è buono. Diciamo che con l'eco forte va bene per i DX, ma io già lo sai, non lo amo troppo, perché vedi, se parli piano come faccio io, cioè parlo lentamente, o quando parli in fretta, allora è un casino, bene. Oh signori, qua non mi ero accorto che sono le 8 meno 6 minuti, meno 7, che lo chiudo alle 8 e mezza, spero, vado a pigliare l'indispensabile, dai. Una parola tira l'altra e se rimango senza acqua e senza latte, senza colazione. Dai, sentiamo, devo scappare. Ah, scusate un attimo, Gianni, mi ero dimenticato, mettici un po' di acqua adesso col microfono, e così la prossima volta non ti posso dire niente. Ciao a tutti, vai, riprendi già. Aia. Ok, dai, io stacco allora, che sono in perigioma qua, mi devo vestire e andare su. Ciao, ciao a tutti. Ciao Marco, buonasera anche a te, mi sa che poco fa mi hanno fatto un fischio, mi sa che mi devo spostare anche io. Dai, salutoni a tutti in tutta la ruota. Luca, Doppio Rum, Marcolino e quant'altro, e tutti gli ascoltatori del 10, dai, ci aggiorniamo. Bye bye. Ehi, ciao Profetta, ciao Doppio Rum, ciao a tutti, ciao ciao. Beh, non c'è nessuno, ti è andata per le 7. Già, io ti ho chiamato ma non mi hai sentito, no? Marcolino ha salutato, a me mi hanno fatto un fischio, quindi anche io mi devo assentare. Dai, un salutone, ci aggiorniamo, ci sentiamo alle prossime, ok? Andare, ciao Gianni, dai, buona carica. No, stavo andando ora proprio di col cane, quindi te l'avevo detto che mi stavo allontanando. Andare, ci sentiamo, dai, ciao ciao. Ok, alle prossime, dai.